Allora, la rassegna di quest'anno, anche quest'anno sulla comunicazione, i Marconi Days, ma con una particolare attenzione per i like e i social. Sì, l'obiettivo è chiederci qual è il valore sociale della comunicazione e qual è l'uso che facciamo degli strumenti che ci ha lasciato Marconi. E quindi i like come, diciamo, obiettivo principale della comunicazione odierna vengono messi un po' in discussione da un approfondimento legato sia all'uso dei social per i più giovani, ma anche al modo in cui noi oggi usiamo la comunicazione per comunicare gli eventi di guerra, ma anche come la usiamo per contrastare la violenza di genere, ad esempio. E quindi gli ospiti sono stati invitati per aiutarci a costruire questa riflessione. Infatti ci sono degli ospiti che parleranno un po' del tema in generale e penso appunto a Giulio Cecchettin, e poi c'è anche una mostra fotografica che parla invece dei giornalisti a Gaza, ma ci sono anche degli eventi più legati a delle opere più locali, a delle attività più locali. Se ci può parlare di entrambi. Esatto, Gino Cecchettin abbiamo invitato perché per il suo lavoro che sta facendo di comunicazione rispetto al tema della violenza di genere, a lui consigliere del Premio di Sasso Marconi. Dialogherà con lui Agnese Pini del Resto del Carlino, mentre la mostra su Gaza è una mostra di giornalisti che vivono in Palestina e che sono stati contattati tramite i social per raccontare quanto sta accadendo e quanto è sotto gli occhi di tutti, ma tutti facciamo un po' finta di niente. Gli eventi locali invece vogliono dare valore a quelle che sono le esperienze di comunicatori contemporanei che hanno fatto la storia anche del territorio, quindi una anziana radioamatrice che storicamente ha vissuto in Argentina e comunicava con la propria famiglia, ma anche lo spettacolo dei ragazzi delle scuole che raccontano un Marconi giovane, sono eredi di quell'iniziativa, così come Onde di Pace, il concerto che mette insieme tante donne di un coro e di musicisti di musica classica per aiutarci a riflettere su cosa oggi vuol dire pace, e l'orchestra Onda Marconi, i giovani di Stato Marconi che suonano le Onde di Pace.